E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Parleremo naturalmente in questa giornata di mercati, non solamente di borse che sì, sono deboli, ma non sono pesanti nella giornata di oggi, se considerate che a Milano il FTSE MIB c'è dell'1,60%, il FTSE All-Share l'1,56%, va un pochino meglio l'America, il Dow Jones lascia sul terreno lo 0,89%, il Nasdaq l'1,31%. Parleremo di questi mercati, ma anche di quelli delle obbligazioni di Stato, perché tornano a salire gli spread tra le obbligazioni di Stato di alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, e il Bund tedesco, che è il punto di riferimento. E poi c'è la questione del mercato valutario, perché l'euro ha subito un netto arretramento in giornata nei confronti del dollaro, arrivando sotto quota 1,26, in questo momento è a ridosso in realtà di quota 1,27 sull'inspessirsi dell'idea che l'America non esca così facilmente dalla recessione. Nel frattempo c'è da registrare il continuo rafforzamento dello yen. Parleremo di questo, parleremo naturalmente della vicenda di CDB, come vi riferiva già il giornale radio. Insomma, si parla appunto di un'ipotesi di insider trading ravvisata dalla Consob e 3 milioni e mezzo di euro di sanzioni a una società e 6 persone fisiche, e tra queste persone fisiche ci sono la cognata di Carlo De Benedetti, la figlia della moglie di Carlo De Benedetti e suo marito. Questa è la situazione per quanto riguarda CDB, poi ci torneremo naturalmente, poi parleremo anche di Serie A, perché è stato presentato di Serie A di calcio, perché è stato presentato uno studio interessante per quel che riguarda i ricavi delle società di calcio, e nel quale si prevede che un club ad oggi potrebbe arrivare ad essere tra i 10 settori più redditizi tra i 10 settori industriali più redditizi d'Italia, anche grazie naturalmente ai ricavi televisivi. Questo il quadro di giornata, le notizie in breve di oggi. Iniziamo dal petrolio come sempre, aperto in calo a New York dell'1,7% a $71,85 al barile. Sempre in merito alle materie prime, mentre ancora sui mercati si discute della vicenda di Potash, si apprende che il colosso minerario svizzero X-Strata ha siglato un accordo per acquisire l'australiana Sphere Minerals per $428 milioni. Abbiamo parlato molto nello scorso periodo dell'ondata anomala di caldo che ha colpito la Russia proprio in merito a questioni che riguardano le materie prime, in particolare il grano. Oggi ne parliamo perché ci sono le prime stime ufficiali su quanto potrebbe pesare questa ondata di siccità sul prodotto interno lordo russo. Ebbene, tra lo 0,7 e lo 0,8% del PIL nel 2010. Dello yen già si accennava, è arrivato a valere 105,53 euro, $83,82, una corsa apparentemente inarrestabile, anche se il Giappone ha deciso di alzare la vigilanza sui mercati valutari. Insomma, sono stati toccati i massimi degli ultimi 15 anni sul dollaro, e quindi il ministro delle finanze Yoshihiko Noda, in una conferenza stampa convocata d'urgenza tra l'altro, dice: guardiamo ai mercati valutari con grande interesse, evita commenti su interventi diretti per frenare a moneta nipponica, che è comunque un movimento chiaramente unilaterale. Dati americani particolarmente negativi. Le vendite di case esistenti sono crollate a luglio del 27,2%, un dato di gran lunga peggiore delle stime degli analisti, che insomma doppio rispetto alle attese degli analisti, che si attendevano un calo del 13,4%. Toccano i minimi dal 1999. Per quanto riguarda le case unifamiliari, i minimi sono dal 1995. E per quanto riguarda le borse, come si diceva prima, il Dow Jones ha reagito immediatamente, è sceso sotto quota 10.000 punti, adesso ha riguadagnato questa quota e l'ha anche superata, 10.082 punti per essere esatti. L'euro, ve lo abbiamo detto, ha recuperato ampiamente terreno, volano i prezzi dei titoli di Stato, fanno segnare nuovi minimi storici alla scadenza biennale negli Stati Uniti e decennale e trentennale tedesca. I rendimenti dei titoli di Stato americani a due anni sono scesi allo 0,4542%, minimo di due anni, quelli sul Bund decennale al 2,16%, nuovo minimo storico. E volano naturalmente anche per effetto di quel che sta succedendo al Bund tedesco gli spread, ossia i differenziali di rendimento rispetto ad altri paesi europei. Ci riferiamo in particolare a quelli con un debito un po' più alto e quindi anche il nostro paese. Lo spread sui titoli greci 867 centesimi, l'Irlanda 305 punti base, il Portogallo a 304, la Spagna 178, l'Italia 153. Spread che poi è stato aggiornato e è arrivato oltre i 160 punti. Tra l'altro la Germania nel frattempo ha confermato i dati dei quali vi abbiamo parlato una decina di giorni fa. Il prodotto interno lordo tedesco è cresciuto del 2,2% rispetto al trimestre precedente, nel secondo trimestre del 3,7% rispetto ad un anno fa. Qualche preoccupazione la lancia il Wall Street Journal, citando dati dell'ufficio statistico tedesco, preoccupazione che riguarda soprattutto il deficit tedesco, perché potrebbe arrivare al 3,5% del PIL, comunque al di sotto delle stime del governo, in forza anche dell'andamento del prodotto interno lordo migliore delle attese. Altri dati positivi per quanto riguarda l'Europa arrivano dall'industria. Gli ordini all'industria sono cresciuti in giugno del 2,5% rispetto a maggio. Un dato interessante, visto che siamo in tema di Europa, è che la crisi economica e la conseguente recessione hanno costretto alla chiusura quasi il 15% dei negozi di Atene, questo secondo i dati della Confederazione del Commercio. Di evasione fiscale avete sentito nel giornale radio, la Guardia di Finanza ha scoperto 1 miliardo di evasione verso San Marino, al mese di gennaio sono state concluse 330 verifiche, sono stati scoperti 850 milioni di euro sottratti a tassazione e IVA evasa per 240 milioni. Rimanendo sull'Italia ci sono i dati forniti ormai con una cadenza settimanale, se non ancora meno, dai consumatori. Al rientro dalle vacanze dicono le famiglie italiane verranno accolte da una stangata da 1.200 euro, dalle assicurazioni auto al riscaldamento, dalle tariffe del gas ai biglietti aerei. E nel frattempo la Camera di Commercio di Milano diffonde uno studio sui prezzi dal quale si apprende che Milano è meno cara di Roma ed entrambe le metropoli italiane sono più economiche di molte grandi città europee, rispettivamente al 24esimo e al 21esimo posto nella classifica. La questione Fiat resta in primo piano. Per quanto riguarda Melfi, dice il ministro Altero Matteoli, il ministro delle Infrastrutture, le sentenze vanno rispettate. Nel frattempo, i 3 lavoratori dello stabilimento della Fiat, licenziati e poi reintegrati, hanno deciso di non entrare oggi in fabbrica. Si sono appellati a Napolitano, chiedendo al Presidente della Repubblica di richiamare al rispetto delle leggi. Ospite questa mattina nel programma di Radio 24, 9 in punto, il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini, ha nuovamente auspicato che Fiat dia piena applicazione alla sentenza. Io credo che sarebbe stato un atto di saggezza e di responsabilità dell'impresa che di fronte a un decreto esecutivo del Tribunale, questo decreto esecutivo venga applicato integralmente, ma nel frattempo i lavoratori devono stare lì, altrimenti con questa azione la Fiat vuole sancire una cosa che io credo sia grave, e cioè che nei suoi stabilimenti la legge, lo statuto dei lavoratori non si deve più applicare. Chiede quasi che ci sia un'extraterritorialità degli stabilimenti della Fiat. Noi ieri abbiamo fatto un esposto alla magistratura, passando anche dai carabinieri con una denuncia, perché la Fiat nel decidere di non voler applicare il decreto esecutivo che nasce da un articolo 28 dello statuto dei lavoratori, sceglie di commettere un reato, perché c'è una violazione del codice penale. Noi questo abbiamo fatto, altre cose le valuteremo, ma questo è quello che abbiamo fatto. Questo era Maurizio Landini, segretario generale della FIOM. Ospite di 9 in punto anche il segretario generale della FIM CISL, Giuseppe Farina, che ha l'ipotesi che Fiat stia forzando un po' le cose, circolata anche su qualche giornale, insomma, o in qualche editoriale, che stia forzando le cose per poi poter rinunciare al cosiddetto progetto Fabbrica Italia, replica così. Noi stiamo a quanto Marchionne negli incontri che abbiamo fatto, che abbiamo avuto, lui ha confermato quindi il piano Fabbrica Italia, e questo noi l'abbiamo ritenuto il più grande risultato dell'accordo di Pomigliano, perché insomma è importante per Pomigliano, ma era importante soprattutto perché appunto impediva alla Fiat di fuggire dal nostro paese con la sua produzione automobilistica. Quindi noi stiamo, stando alle dichiarazioni, agli atti veri, che quelli che poi alla fine fanno la differenza, ovviamente, insomma, noi non abbiamo questa preoccupazione. Io sono sicuro che la Fiat intende, come dire, sviluppare in Italia, anche perché ci sono degli interessi, non è beneficenza, insomma, ovviamente deve affrontare i problemi dell'organizzazione produttiva, sulla quale noi siamo disponibili ovviamente a discutere, come abbiamo fatto su Pomigliano anche sugli altri. Però indubbiamente io credo che ci sia un interesse anche della Fiat comunque a mantenere un forte presidio produttivo in un mercato come quello italiano, che non è insignificante, diciamo. Ecco, anche detto perché detto questo, però voglio anche aggiungere che devo dire che dai comportamenti della Fiat, appunto, in questa, diciamo, ricerca forzosa quasi anche da parte sua di delle ragioni più del conflitto che del consenso, il dubbio può venire, e devo dire che in qualche momento ha sfiorato anche noi, ecco. E giusto per rimanere in termini di economia europea, visto che ne abbiamo parlato fino adesso, viene battuta dall'agenzia Radio Cori in questo momento che il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn dice: negli Stati Uniti c'è una comprensibile preoccupazione sui rischi di una ricaduta nella recessione. Sempre a proposito di Fiat, Chrysler, cioè Marchionne era negli Stati Uniti, il presidente e vicepresidente del sindacato dei metalmeccanici auto, dei metalmeccanici americano, Bob King e General Holyfield, hanno detto: guardate questa fabbrica, è merito di questo signore qui, Sergio Marchionne. Ringraziamenti anche dal vicepresidente americano Joe Biden, che era appunto a Toledo in questo stabilimento della Chrysler. Ringraziamenti a Sergio Marchionne, il quale ha parlato anche dell'azienda, ha detto che oltre 200 concessionari Chrysler hanno fatto richiesta per vendere il marchio Fiat negli Stati Uniti. C'è qualche timore su questo fronte da parte nuovamente del Wall Street Journal, che cita proprio i concessionari. Dice: la mossa di far arrivare la 500 negli Stati Uniti preoccupa i concessionari, che già faticano a vendere le auto in loro possesso. La vicenda Tirrenia, qualche prospettiva si è aperta, dice il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, che convoca i sindacati per il 6 settembre alle ore 17:30. In giornata il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Sagli aveva parlato di una possibilità stile all'Italia, una bad company nella quale far rifluire tutti i debiti e poi invece una good company da vendere. Ebbene, il ministro Matteoli dice non ne so nulla, parlerò con Saglia per chiedergli che cosa intende. A proposito di bad company, sentiamo l'opinione della Will Trasporti. Giuseppe Caronia, straprotagonista di questa vicenda, della vicenda Tirrenia, intervistato da Laura Bettini. Sono realtà completamente diverse. Mentre l'Italia era un'azienda tecnicamente fallita e non c'era nessuna possibilità nessun'altra possibilità che quella che abbiamo percorso. Per Tirrenia è un'azienda il cui valore complessivo è maggiore dell'indebitamento, e lo stesso indebitamento con le banche non è che è venuto fuori ieri o l'altro ieri, è un indebitamento che conosciamo da anni e che si è anzi progressivamente ridotto per una politica di rigore che abbiamo messo in piedi e che non vede molto contenti i lavoratori, perché abbiamo ridotto il costo del lavoro. Quindi se non ci fosse stata questa accelerazione inspiegabile, ed è questo che io vorrei chiedere al Ministro, la ragione per cui inspiegabilmente nel mese di agosto, quando tutto il paese è fermo, si è fatta questa accelerazione, la nomina del... Poi vera, anche su quello lì, quando è stata indetta la gara, allora se Fintecna avesse detto: caro amministratore, tu sei qui da 26 anni, adesso è bene che te ne vai a casa perché potresti in qualche modo influenzare l'esito della gara, anche in buona fede, ma potresti influenzarla, quindi prendo un bel amministratore unico nuovo, lo metto lì, gli do il mandato, portami a compimento la gara, nessuno avrebbe avuto da ridire. E invece no, si è fatto fare tutto il procedimento al vecchio management, no? Che ha fatto la due diligence con i 16 che avevano manifestato interesse, poi con quelli che sono rimasti. Quando è finito praticamente tutto, improvvisamente con un decreto hanno decapitato l'azienda nel momento di maggiore impegno, ne hanno risentito i servizi, ne hanno risentito i lavoratori, quindi si è ottenuto esattamente l'opposto di quello che il decreto voleva perseguire. Era Giuseppe Caronia della Will Trasporti sulla vicenda Tirrenia. L'arrivo di una nuova base ci sottolinea che stiamo cambiando argomento e veniamo finalmente alla questione dei mercati. Poi magari risponderemo anche agli ascoltatori che ci scrivono del forte rimbalzo del Baltic Index. Saluto Walter Riolfi del Sole 24 Ore, buonasera Walter. Buonasera. Che come sempre ci accompagna in questi momenti. Allora, iniziamo dalla mattinata, il volo dello yen, dollaro ai minimi da 15 anni contro lo yen naturalmente e euro ai minimi contro lo yen da 9 anni. Il Ministero delle Finanze giapponese, ve lo abbiamo detto, mantiene alta la vigilanza. Nella giornata di oggi da segnalare anche sempre in ambito di mercato dei cambi, l'euro che scende sotto quota 1,26, poi arriva il dato sulla vendita di case esistenti negli Stati Uniti, un meno 27,7%, il doppio di quanto non si attendessero gli analisti, e l'euro ritorna su. Nel frattempo i mercati scendono, forse non così tanto insomma come erano partiti, almeno per quanto riguarda l'America. Il Dow Jones cede lo 0,87%. Ti chiediamo, Walter, di aiutarci a capire cosa sta succedendo. Insomma, abbiamo parlato nelle settimane scorse più di una volta di possibilità di una double dip, di una ricaduta in recessione, comunque di un'America che non decolla. Alla fine siamo sempre là. Ma la situazione è abbastanza difficile da decifrare. La cosa chiara è che c'è un forte rallentamento. Se poi questo forte rallentamento prelude a una double dip, cioè una seconda ricaduta in recessione dell'economia americana, questo qui è difficile dirlo, e secondo me cioè, il timore è giustificato, ma non abbiamo elementi per dire che succederà. E comunque, come si dice, si sbaglia. Seconda cosa, se l'America va in recessione ci va anche l'Europa. questo è matematico, no? E lo è sempre stato, quindi non può, l'Europa non può sentirsi immune da una crisi. Allora, se noi dovessimo giudicare cosa succederà nell'economia attraverso la borsa, beh, direi che non siamo in recessione attraverso Wall Street. Anche oggi la reazione di Wall Street è tutto sommato moderata, perde l'1%, adesso perde meno delle borse europee, no? Con cose che la riguardano direttamente, come le vendite di case crollate e l'indice manufatturiero e dei servizi dell'area della Fed di Richmond, quindi una zona importante, in caduta libera e addirittura negativo quello dei servizi, no? Quindi a giudicare da questi saremmo quasi sulla recessione. Se dovessimo, anche perché poi la borsa, che Wall Street è un 10% dai massimi storici toccati verso la fine di aprile, no? Quindi non è una non dà un segnale così forte. Se dovessimo invece giudicare l'economia da come vanno i titoli di Stato, quelli americani e quelli tedeschi in primo luogo, diremmo che siamo in recessione. Cioè, oggi abbiamo toccato, continuiamo a toccarli ogni giorno, e oggi è ancora un nuovo minimo storico per quanto riguarda i rendimenti, sia dal T-bond americano che fa 2,48-2,47% e dal Bund tedesco che fa 2,18%. Bund tedesco penso che storicamente non si sia mai visto. Nel T-bond americano abbiamo avuto un 2,1% nel momento più acuto della recessione, siamo un passo da quello, no? Ecco Walter, io proprio sulla questione delle obbligazioni di Stato americane mi vorrei soffermare un attimo, perché l'idea è sempre quella che si vada a finir là, che gli investitori vadano a finir là, perché è una sorta di bene rifugio, se così possiamo chiamarlo, un investimento rifugio. Ecco, la condizione americana però non suggerirebbe questo, né dal punto di vista dei conti pubblici, né dal punto di vista della tenuta economica, almeno al momento. Allora, in linea generale tutti i titoli di Stato sono un rifugio, no? Se uno teme che l'economia vada male, è un rifugio perché per quelli che si sono messi sulle azioni o sulle commodity in materie prime, però fino a un certo punto. Il concetto di assenza di rischio nei titoli di Stato è teorico fittizio, dipende dai momenti. Adesso con rendimenti del 2,18% come il Bund, quindi vuol dire che il prezzo è salito. Beh, o ci aspettiamo non solo una recessione, ma tipo una nuova grande depressione, oppure prima o poi questi rendimenti dovranno salire, anche se l'economia non dovesse correre ai ritmi degli anni passati, anche semplicemente a ritmo dimezzato. Questi sono rendimenti che non si sono mai visti, sono talmente bassi che fanno pensare che ci sia anche una bolla. Ma non è semplicemente un effetto fuga da paesi più a rischio? Sì, c'è indubbiamente anche questo, no? Allora, fuggo, vado a comprare il Bund e sono relativamente tranquillo, vado a comprare i titoli denominati in yen e sono relativamente tranquillo, insomma. Il Giappone ha il 200% di debito rispetto al PIL, non lo so quanto sono relativamente tranquillo. Gli Stati Uniti, se mettiamo dentro tutti i debiti e roba del genere, arriviamo a 140% del PIL, quindi superiamo anche l'Italia, no? E non so quanto, fino a che punto possiamo essere tranquilli, no? Verrà un giorno in cui gli Stati Uniti, e siccome si aggravano le situazioni finanziarie della finanza pubblica americana, verrà un giorno in cui questi qui faranno fatica, il tesoro americano farà fatica ad emettere i bond, e per emettere bond vorrà dire che dovrà dare un piccolo premio agli investitori, che vuol dire aumentare il rendimento. Quindi questa fuga qui ha qualcosa di, se si vuole, di irrazionale, però i mercati ci hanno abituato che il punto di equilibrio nel medio-lungo periodo probabilmente lo trovano, no? Ma nei periodi più brevi sono, come dice, overshooting, sono abituati a sparare o troppo in alto o troppo in basso, no? Io ho l'impressione che adesso sui titoli di Stato stiano sparando troppo in alto, quindi i titoli salgono e i rendimenti scendono. In tutto ciò, come dicevi, in realtà i mercati, intendo in questo caso le borse, non reagiscono come dovrebbero, forse. Sì, ci sono due comportamenti diversi, come ho detto prima. Le borse non segnalano una recessione, diciamo correzione, eccetera, e i titoli di Stato segnalerebbero recessione. Poi ci sono anche il discorso degli spread in Europa. Prendiamo quello italiano, per esempio. No? Si allarga lo spread rispetto alla Germania, quindi le cose stanno andando male. No, non è vero. Perché il rendimento, sta scendendo anche il rendimento del BTP italiano, solo che quello tedesco per questo effetto rifugio sta addirittura crollando, ma in realtà i rendimenti dei titoli italiani sono di un 30-40 centesimi, mi pare, più bassi che non da inizio anno, quindi non stanno andando male. Ecco, diciamo che va male in Europa sono semmai i titoli greci e i titoli irlandesi, ma ci sono delle motivazioni ben precise. La Grecia lo sappiamo, l'Irlanda c'è il salvataggio dell'Anglo-Irish Bank che costerà 10-20 miliardi allo Stato irlandese. Questo è il quadro. Prima di salutarti, Walter, una battuta, ma giusto una battuta su questo Baltic Index, perché sono già due ascoltatori che ce lo chiedono, così ce lo togliamo. Ma io ho visto che è estremamente volatile questo indice, è andato giù tantissimo ed è influenzabile anche da situazioni contingenti. Gli americani, gli investitori americani adesso stanno guardando soprattutto l'ETF sui noli marittimi, sulle compagnie dei noli marittimi, e lo ritengono più affidabile anche perché più continuo, con meno salti. E questo direi che, mentre non era caduto così forte, mentre cadeva il Baltic Index fino a un mese fa, adesso non sta nemmeno risalendo come sta risalendo l'altro. Quindi secondo me in questo momento può essere un indicatore fuorviante. Grazie anche per questa indicazione a Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Grazie Walter e buonasera. Buonasera. Le borse. Paolo Paronetto, Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, il discorso generale sui mercati lo abbiamo fatto con Walter Riolfi poco fa. Il FTSE MIB comunque chiude con un ribasso dell'1,6% circa, il FTSE All Share dell'1,53%. Quindi ti porto, come dire, direttamente sui singoli titoli, a partire da quello delle costruzioni, dal settore delle costruzioni. Sì, esattamente, il settore delle costruzioni oggi è stato tra i più colpiti dalle vendite in tutta Europa, tanto che il sottoindice continentale ha perso oltre il 4%. In Italia sono andati male soprattutto i titoli in pregiro, che sono stati i peggiori del listino principale di Piazza Affari, con un calo del 4,16%, ma hanno chiuso in rosso anche i telcementi, meno 3,07%, soprattutto tra i titoli peggiori. E a innescare oggi l'ondata di vendite sui listini sono stati sia i timori sull'andamento dell'economia, naturalmente il comparto costruzioni è tra i più legati all'andamento della congiuntura, e quindi visto i rinnovati timori su una possibile doppia recessione sono stati tra i titoli più venduti, ma inoltre c'è stato un fattore più legato proprio direttamente al comparto, e cioè i conti del colosso irlandese CRH, che è il secondo maggior gruppo di forniture per le costruzioni a livello mondiale. Oggi ha annunciato dati semestrali in decisa flessione e soprattutto ha tagliato le stime sull'intero esercizio 2010, ovviamente un taglio delle stime che ha preoccupato gli operatori sulla tenuta del mercato delle costruzioni. Nella giornata di oggi giù anche Prysmian del 3,73%, Tenaris si diceva del 2,68%, Exor di 2,5 punti percentuali, che è la controllante di Fiat, che cede il 2,02%, giù Fiat quindi oggi, Paolo. Esattamente, Fiat ha perso terreno anche se sul finale ha limitato i danni, almeno in relazione alla restante parte del mercato. Secondo gli operatori, quello che ha penalizzato in parte oggi il titolo sono state le dichiarazioni dell'amministratore delegato Sergio Marchionne di ieri negli Stati Uniti. Marchionne ha definito difficile la possibilità che Chrysler possa chiudere l'attuale esercizio inutile, da sottolineare che non c'era nessuna stima in tal senso, ma dopo un secondo trimestre molto positivo, sul mercato si erano diffuse alcune aspettative e alcune parlavano addirittura appunto di questa possibilità di un ritorno all'utile già quest'anno, e quindi diciamo che è stato preso questo come pretesto per vendere oggi i titoli Fiat che ieri avevano chiuso in lieve rialzo. Anche XOR, che ieri era stato tra i migliori, come ricordavi tu, ha chiuso in calo di 2,5%. Giù Unicredit di 2,5%, la Popolare di Milano del 2,40%, il Banco Popolare del 2,27%, Mediobanca del 2,18%, il Monte dei Paschi del 2,10%. E adesso recuperiamo anche Intesa San Paolo in calo dello 0,66%, insomma complessivamente una giornata negativa per le banche, dipende suppongo anche molto semplicemente dall'andamento dei mercati, Paolo. Sì, esattamente, i titoli delle banche come sempre seguono molto in questi ultimi mesi l'andamento del listino, oggi sono stati tra i peggiori in tutta Europa, il sottoindice del settore ha perso il 2,23%, c'è anche da dire che sul settore italiano pesano altri due fattori, da una parte gli analisti di Goldman Sachs oggi hanno raccomandato cautela sul comparto italiano, in cui l'unico titolo che ha una raccomandazione positiva, cioè di comprare, è quello di Unicredit, che comunque oggi, come ricordavi tu, è stato il peggiore del settore, mentre su altri la raccomandazione è stata confermata a sell o a neutral con una revisione al ribasso degli obiettivi di prezzo. E d'altra parte ricordiamo che questa è la settimana in cui saranno resi note, approvati e poi diffusi i conti semestrali di tutte le principali banche italiane, con l'eccezione di Unicredit, che ha già comunicato all'inizio agosto i suoi risultati, e quindi gli investitori aspettano di conoscere i conti per avere maggiori informazioni prima di prendere posizione. Sì, nell'attesa vendono. Allora, Autogrill positiva dello 0,11%, solo un sì o un no, Paolo, immagino sia legato all'andamento del dollaro di oggi, che è stato forte fino a un certo punto, poi arrivati i dati sulle vendite di case si è indebolito di nuovo, no? Sì, esattamente, sono i titoli che erano legati al dollaro, che ha toccato un massimo nei confronti dell'euro da oltre un mese. E stesso ragionamento vale per Luxottica, un calo di 0,5%, e però è tra i 5-6 migliori titoli del listino. Terna è il migliore, più 0,24%, insieme a Parmalat, più 0,21%, Bulgari, più 0,17%. C'è un motivo particolare su Terna? No, Terna come al solito è un titolo molto difensivo che resiste alle vendite quando i mercati sono invece colpiti da forti cali. Oggi, come ricordavi tu, è stato il migliore con un rialzo dello 0,24%, anche a livello europeo il settore utilities è quello che ha resistito di più all'attuale ondata di vendite. Così come probabilmente Snam Rete Gas, più 0,07%. Benissimo, grazie anche per oggi a Paolo Paronetto di Radio Core Il Sole 24 Ore. Grazie a voi. Un quadro finale di giornata, gran parte dei titoli ve li abbiamo già dati. Comunque Campari in calo dello 0,62%, Intesa San Paolo dello 0,66%, così come Buzzi Unicem, Pirelli giù dello 0,76%, dello 0,8% A2A e Fondiaria Sai, Unipol ed Enel dell'1,1%, Generali dell'1,25%, Saipem dell'1,38%, Mediaset dell'1,4%, CIR dell'1,47%, Ansaldo di 1,5%, così come Atlantia, Eni giù dell'1,65%, Azimut dell'1,73%, Geox dell'1,75%, Telecom Italia e Mediolanum dell'1,8%, e insomma tutti gli altri praticamente ve li abbiamo dati, fatta eccezione per l'Ottomatica in calo del 2,23%. Restiamo su temi di mercato per parlare però della vicenda di CDB WebTech. Saluto e rimaniamo quindi in collegamento con la redazione di Radio Core Il Sole 24 Ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, è arrivata una sanzione dalla Consob per insider trading sui titoli della CDB WebTech, che è il fondo salva imprese, il cosiddetto fondo salva imprese di Carlo De Benedetti. Brevemente, Eleonora, la vicenda. Sì, no, facendo un breve riepilogo, la CDB WebTech nacque nel 2000 e nel 2005 fu annunciato che avrebbe lanciato un fondo salva imprese che poi più tardi diventò la Management e Capitali. Detto questo, oggi la Consob ha applicato sanzioni per 3,5 milioni di euro a una società e 6 persone fisiche, ma la cosa interessante è che tra le 6 persone fisiche compaiono nomi molto vicini e legati a Carlo De Benedetti. In particolare si tratta di Renata Cornacchia, che è praticamente la sorella minore di Silvia Cornacchia, che è l'attuale moglie di Carlo De Benedetti, nota come Silvia Monti. Silvia Monti è il nome di arte. Poi compaiono sempre tra i multati una Donà delle Rose, che è la figlia della stessa Silvia Monti, figlia ovviamente di prime nozze, attuale moglie di De Benedetti, e suo marito Alessio Nati, che era saltato alle cronache lo scorso anno, nell'estate del 2009, in quanto aveva movimentato proprio i titoli di Management e Capitali, la società nata dallo scorporo, nemmeno a farlo apposta, appunto, di CDB WebTech, società legata ovviamente fondata nel 2000 da Carlo De Benedetti e di cui porta ovviamente anche le iniziali. Un bel quadro. Si incrementarono parecchio le quotazioni in quel periodo, Eleonora? Sì, appunto, nel 2005 la Consob ha combinato questa multa, in quanto prima che venisse annunciato il lancio di l'ipotesi, il progetto di creare il fondo salva imprese, si parlò peraltro di un fondo bipartisan, doveva entrarne a far parte sia la Fininvest, che poi appunto non entrò, ma la Fininvest insieme a De Benedetti, oltre che Montezemolo, Della Valle, molti imprenditori, ma prima appunto dell'annuncio ci furono numerosi acquisti e ad acquistare erano appunto persone anche vicine a De Benedetti. Esatto, queste 6 persone più una società. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Cori Sole 24 Ore per averci spiegato la vicenda. Parliamo di Serie A. Mancano pochi giorni al fischio d'inizio del campionato, che si aprirà sabato prossimo con gli anticipi Udinese-Genoa e Roma-Cesena, ma naturalmente ne parliamo da un punto di vista economico. Secondo un'analisi realizzata da Stage Up, la redditività media di un club di Serie A di calcio passerà infatti da meno 8,3 milioni di euro del 2008-2009 a più 0,4 del 2010-2011. Questo grazie ai maggiori incassi dai diritti televisivi. Ne parliamo con il presidente di Stage Up, Giovanni Palazzi. Buonasera. Bentrovati a voi di Radio 24 e agli ascoltatori. Allora, iniziamo dalla questione dei diritti televisivi. Perché, se è vero che quest'anno potranno aiutare molto le squadre di calcio, soprattutto sul fronte appunto della redditività, come si evince dalla vostra ricerca, è vero anche che forse hanno un peso un pochino eccessivo sui ricavi delle società rispetto, penso per esempio, ad altri campionati di calcio? È un'osservazione molto giusta. Infatti, da un punto di vista dato 100, il totale dei ricavi di un club medio, il peso dei diritti televisivi passa da un 60% circa un 70%, quindi siamo ad un'ulteriore situazione nella quale esiste una forte dipendenza del sistema calcio dal sistema televisivo, una dipendenza che effettivamente, prendiamo per esempio la Premier League, ma anche la Bundesliga, in questi campionati questa dipendenza non esiste, nel senso che i diritti televisivi rappresentano una quantità rispetto al totale ricavi che è inferiore al 50%. Sì, tra l'altro, giusto per darvi un'idea, gli incassi da stadio in Italia valgono circa il 13%, in Inghilterra, tanto per fare un esempio, un 26%. Poi torneremo sul tema degli incassi da stadio, perché vorrei sentire la sua opinione su questo e in particolare sulla tessera del tifoso, che entra in vigore quest'anno per questione di sicurezza, e ve ne stiamo parlando parecchio nei nostri giornali radio, nelle nostre trasmissioni, e però rischia di creare qualche problema, e qualche problema lo ha già creato sul fronte degli abbonamenti. Comunque, A questo arriveremo tra un attimo. Voi dite, tra le altre cose, nella vostra ricerca che in termini di redditività il business di un club di Serie A potrà entrare quest'anno tra i primi 10 settori industriali appunto più redditizi del nostro paese. E però resta il nodo che si diceva, cioè sono dei ricavi, dei redditi molto sbilanciati. Ma secondo me i temi sono due. Il primo è quello che avete messo in luce voi: esiste una forte dipendenza dal settore televisivo. Il settore televisivo è oligopolistico per definizione, e quindi questo può creare nel tempo una dipendenza che può essere pericolosa. Al tempo stesso è anche vero che la nostra previsione fa leva anche su un altro elemento, cioè che la struttura dei costi rimanga la stessa che nel campionato, nell'ultimo campionato, cioè non ci sia un incremento di costi e quindi i club si concentrino su un mantenimento dei flussi di cassa in uscita paragonabile. Questo mi sembra che tutti gli elementi di cui siamo in possesso, che sono elementi di tipo qualitativo, vadano in questa direzione, cioè da parte dei club c'è consapevolezza che la sostenibilità economica è un valore. Insomma, stanno banalmente spendendo di meno per i calciatori. Sì, stanno spendendo di meno per i calciatori in due sensi: da un lato come salari, dall'altro come acquisti, quindi come ammortamenti per l'acquisizione dei diritti di prestazione, ossia per i cosiddetti vecchi cartellini, se vogliamo chiamarli così, che vengono ammortizzati nell'ambito degli esercizi. Questo è un fatto, in più c'è una tendenza che sta comunque venendo fuori, che è quella del cosiddetto tornare al vivaio, cioè avere giocatori giovani che vengono fatti crescere nelle proprie file e che quindi non hanno un costo d'acquisto al momento in cui entrano in Serie A e che anzi possono rappresentare in divenire un ricavo per la società, perché magari possono essere immessi sul mercato. Questo è un tema sicuramente molto rilevante, cioè il fatto, teniamo conto che già i club hanno avuto una forte impennata maggiore di questa nell'ambito dei diritti televisivi. Questo è avvenuto a cavallo della fine degli anni 90 e i club però in quel momento, come presi da improvvisa sfrenatezza, hanno cominciato a spendere per i giocatori in particolare molto più di quanto incassavano. Quindi in realtà questi maggiori ricavi non si sono trasformati in maggiori profitti. Noi abbiamo l'impressione che però, ribadisco, ci sia entrati nella logica che la sostenibilità economica è un valore ed è un valore da perseguire. Su questo vorrei anche spendere due parole verso i tifosi, cioè i tifosi si devono rendere conto che a livello di Serie A lo sport intrattenimento deve avere una sostenibilità economica ed è importantissimo che da parte del presidente, da parte del management ci sia grande attenzione ai costi, quindi non si facciano follie, perché una follia presa adesso che può dare magari una soddisfazione di brevissimo periodo può significare addirittura la sostenibilità della società in futuro, può significare che la società addirittura possa essere esclusa dai campionati. Sì, questo è un ragionamento che i tifosi devono fare. Mi scusi, però questo probabilmente vale soprattutto e in particolare nel caso italiano, perché è vero che se uno fa una follia, nel senso che compra un grandissimo giocatore, uno tra i più noti, è vero anche che si compra un marchio. Allora, in una struttura di ricavi come quella delle società italiane, nelle quali mediamente il merchandising vale per il 24% contro, per esempio, il 43% della Bundesliga circa, insomma, andiamo a spanne, naturalmente alla fine l'acquisto di un giocatore di un determinato tipo e di una determinata qualità può renderti, dal punto di vista puramente dei risultati, ma poi a un certo punto, e questo non è nemmeno detto naturalmente, e però non ti rende quanto dovrebbe da altri punti di vista, dal punto di vista del merchandising o dal punto di vista del riempimento degli stadi, appunto. Allora, sicuramente prendere un campione, prima di tutto, lei è stato ottimista, cioè il 24% del merchandising i nostri club non lo ricavano, ricavano molto meno, anche perché siamo una degli stati in cui la contraffazione a gioco facile più che negli altri paesi europei. Ciò posto, rimane il fatto che ci deve essere dietro all'acquisto di un campione un progetto economico. Cioè non è sufficiente dire prendo il tal giocatore perché vincerò, perché il solo vincere, quasi sempre, non genera quella sostenibilità necessaria. E quindi ci deve essere un progetto agonistico che quindi fa capo alla squadra ed eventualmente anche a tutti gli introiti in più che può portare il vincere, non so, i premi per le sponsorizzazioni. Oppure nell'ambito della Champions League il fatto di superare i vari turni che ti possono portare a maggiori introiti. Ci deve essere anche un progetto relativo al merchandising, relativo anche ad una visibilità maggiore che il club nel suo complesso può avere, che quindi gli sponsor possono avere. Questo ci deve accompagnare al progetto agonistico, non possono essere due piani completamente separati. E molto spesso invece lo sono stati. Bene, bene, ci sembra chiarissimo, sembra sia stato chiarissimo Giovanni Palazzi, presidente di Stage Up. Non abbiamo purtroppo il tempo, perché sta finendo il tempo a nostra disposizione, di toccare il tema della tessera del tifoso e dell'impatto che può avere sui ricavi da stadio, ma insomma, come avete sentito, i ricavi da stadio per le società italiane sono abbastanza bassi rispetto a quelli delle altre società d'Europa, e quindi insomma anche un impatto relativo, se vogliamo. Intanto ringraziamo Giovanni Palazzi, presidente di Stage Up, per essere stato con noi. Grazie a voi. Siamo, come si diceva, quasi in chiusura, giusto per rispondere a chi ci chiede qual è al momento la quotazione dello yen contro il dollaro a 84,15, $84,15 a 106,66 euro. E quindi non si è discostato molto da come aveva aperto questa mattina. Nel frattempo l'America prosegue più o meno sulla stessa linea, con il Dow Jones che cede lo 0,80%, il Nasdaq all'1,13%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,89%. Bene, non mi restano che ringraziamenti a Carmelo Lauricella in regia, a Mauro Del Corno in redazione. Un ringraziamento come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Focus Economia termina qua, ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.